scrittore di talento come Giuseppe Genna e scrive un romanzo di genere, ovvio che questo non è un romanzo di genere, è un romanzo letterario, punto e basta. È una questione stilistica, che poi i grandi autori abbiano usato il genere e non ultimo anche un certo Kubrick per fare dei capolavori assoluti, è anche lì un discorso di genere, lui li ha passati tutti, ma lo stesso anche col romanzo eroico. Viene considerato, eh sì, però il Roy fa il genere, sì, beh, è bravo, punto, e allora esce dal genere, dal momento che ci sono un sacco di romanzi normali, non di genere, che sono scritti a culo e nessuno si preoccupa di questo, neanche noi ce ne preoccupiamo, andiamo avanti, insomma. Ah, da scrittore posso dire che, insomma, empiricamente non vale molto un'unica esperienza, però posso dire quello che... Beh, tu hai scritto due romanzi che tecnicamente vengono considerati dei romanzi noir. Però entrambi sono però noir e con anche il discorso dell'ucronia e quindi è ancora più complessa la cosa. Quello che volevo dire è proprio questo, che secondo me non ci si pone a priori, a meno che non si voglia fare per una questione narrativa, un giallo classico, voler scrivere assolutamente dentro quella gabbia, non ci si pongono dei paletti. Non si dice adesso scrivo quel tipo di romanzo lì che so che si muoverà assolutamente nelle regole del genere. Si scrive un romanzo e di solito si prende una strada, dopodiché quasi sempre sconfina dal genere, nel senso che a me è capitato, continuando a raccontare la storia iniziata con Confine di Stato, di arrivare a parlare di fantascienza, di fantapolitica, di cose che... Tu hai iniziato dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, sostanzialmente, per arrivare poi al futuro. Sì, però il processo è stato da un lato abbastanza incosciente, dall'altro abbastanza naturale, nel senso che è magari difficile da ricondurre alle dinamiche di genere accreditate, però per un autore è semplicemente, si tratta di scrivere, quando c'è una storia è difficile non starle dietro. Certo, infatti io sono perfettamente d'accordo, perché secondo me sono polemiche sterili che lasciano un po' tempo che trovano, però visto che tanto se ne parla, tu sei appunto sei proprio un esempio di come si passa senza soluzione di continuità, no? Dalla storia, dalla memoria, dal passato, dallo studio del passato, dal recupero di un discorso su quello che è la storia dell'intera della nostra Italia, a quello che potrebbe essere il futuro possibile, e questo in linea. Ci sono anche gli oltranzisti di questo ragionamento qua dei generi, che mi hanno detto un giorno, vabbè, ma tu hai scritto un romanzo storico o un romanzo di genere, e io l'ho guardato e faccio, vabbè, ma cioè, come si sposa un romanzo di genere? Cioè, tutto diventa genere allora con questo ragionamento qui, perché ovvio che lo incanali in una tradizione, sono stati i precedenti, ci saranno probabilmente altri romanzi dopo. Ma al diavolo, quando tu vai a cercare in libreria, dove lo mettono? In che settore? Lo mettono in ordine alfabetico, non sapendo dove inquadrarlo meglio. No, ma perché appunto se si considerano i romanzi storici di genere, mettono evangelisti, tutti quelli, non evangelisti, ma Massimo Manfredi, sì, tutti quelli di Cappa e Spada, sì. Opliti, sì. Legionari, e li mettono tutti in un gruppone. Sì. Così non sbagliano. Sì, no, però poi è quello, però è genere. Ecco, ad esempio, secondo me è una cosa che ancora caratterizza veramente il genere in modo deteriore, è tipo la stereotipizzazione del personaggio, del carattere o della storia, che magari dopo 5, 6, 7 ancora quella roba, tipo nel noir il detective disilluso, stanco, con problemi di stomaco, che guarda il mondo, quello con l'ucera. Sì, che poi esatto, che va avanti così, tipo da Chandler in poi per 200 volte, allora quella stereotipia di personaggio magari è un po' vetusta, ecco. E lo stesso per i cappe spada, eccetera, o per i vampiri, ecco, nuovo genere, vampiri a go go, ce n'è ovunque, e quindi, ma è genere anche allora, se si vuole usare una categoria deteriore, il giovanilismo, tutti i vari metri sopra, sotto il cielo, ma anche tutti i suoi epigoni, o star, in copertina sempre lo star, sì. È giovane, e io sono giovani da 20, 40 anni che i giovani mettono lo star, allora vedi che sono di genere lo star, non puoi sbagliare, se c'è lo star sei giovane. Ma chi ha ucciso l'uomo ragno? Eh? L'uomo ragno che l'ha ucciso. Ecco, mi sembra la domanda che coglie il punto. Ma sai che è interessante, perché passa la citazione della guerra mondiale all'uomo ragno, è una grande cultura pop. Cultura pop, hai citato un argomento cruciale, in questo senso. nella cultura pop, in che senso? Ma in che senso? Se ne fa un tanto parlare ultimamente, abbiamo, prima eravamo a tavola, parlavamo tutti di Lost, no? Abbiamo messo insieme, la cultura pop cosa fa? Mette insieme i serial televisivi, un certo tipo di letteratura che, tra virgolette, a volte si rende film di genere, quindi può essere appunto l'ucronia, le distopie, questi modi di vedere il futuro, un certo modo di fare televisione, appunto di fare cinema, ma ha un senso anche questo, secondo te? Certo, ha un senso, a lui glielo devo chiedere. A lui glielo devo chiedere? A lui glielo devo chiedere perché lui la maneggia moltissimo, la cultura pop. A nastro, come si dice? A nastro? Allora, sono sempre lì, nel senso... Non si tratta tanto di etichette quanto di evoluzione del modo di narrare. Per quanto mi riguarda, da narratore mi interessano tutte le forme di narrazione, per cui sicuramente mi interessa quella cinematografica, ultimamente mi interessa molto quella televisiva perché ha sopravanzato di livello quella cinematografica. Un tempo guardavo molti più film, in proporzione erano molti più i film dei telefilm che guardavo, adesso guardo quasi solo serie. Perché? Perché sono molto soddisfacenti dal punto di vista narrativo. Secondo me, soprattutto le serie americane, non dovrei parlare male di quelle italiane perché le scrivo, ma in realtà per la maggior parte fanno cacare, ci metto pure dentro quelle che scrivo, nel senso che c'è veramente una sperequazione tra il livello del narrativo dei serial americani rispetto a quello della TV di casa nostra, ma questo è un discorso anche quelle di Tazieri. Tutto sommato non fanno cacare, povero Sant'Amore. Infatti facesse quello. C'è della polemica acida nei confronti del povero assente Sandrone. Che è a Kiev, tra parentesi. Tra l'altro è a Kiev. No, dicevo, da narratore, ripeto, mi interessa qualunque tipo di innovazione narrativa. Secondo me si può imparare molto, la maggior parte degli scrittori diventa scrittore perché era un fervido lettore, ma si può imparare molto anche guardando la televisione, guardando il cinema, e soprattutto si può imparare molto sul dialogo, che è una cosa, è uno strumento piuttosto importante quando si scrive narrativa in generale. Ecco, sui meccanismi narrativi. Scrive, io tre libri della mia vita, appena d'ora, ho 68 anni, tanto da dire. Quindi le dovrei fare da briografo e fare la mia seconda trilogia. Ovviamente rubando. Sì. E questo è il senso, la parola di uno contro l'altro. Ma tu però, non è una sola questione stilistica, tu saccheggi la cultura pop anche a livello di argomenti. Sì. Perché il Balanzà scusato da lui è un'icona pop. Sì, senza dubbio. È assolutamente un'icona pop che inserisce in maniera eversiva dentro la storia, perché ovviamente... Ma infatti, bravo, hai detto, secondo me hai detto proprio la cosa giusta, cioè il canone della cultura pop, cioè che cosa si intende? È proprio l'utilizzo in modo eversivo di certi elementi, cioè quando un elemento che fa parte della storia e della narrazione, della vita quotidiana, viene preso, estrapolato e riutilizzato in un modo che è sconvolgente per la narrazione, allora sì, lì diventa elemento culturale. Ma sai, negli ultimi 30 anni di narrativa italiana influenzata dal postmoderno, quindi dalla cultura e dalla prassi proprio postmoderna, e la cultura pop era sempre vista in modo molto ironico, era un'arma difensiva di ironia in cui tutto valeva, tutto un relativismo cosmico, non c'era più il bene e il male, era tutto un frullatore appunto pop. Secondo me la novità degli ultimi anni è che anche la cultura pop viene vista in maniera seria, ovvero Balanzasca è un personaggio serio, ad esempio nel suo romanzo, completamente inventato, il suo Balanzasca, sì, certo, era quello vero, però è Balanzasca, però è inteso seriamente, in un contesto serio, non è ironico, non fa ridere, non è un modo di vedere come negli anni 90 facevano molti autori italiani, compresi Cannibali, eccetera, eccetera. La cultura pop viene considerata come fonte letteraria seria, cioè attendibile, è storia. Mm-hmm. E quindi infatti vediamo appunto, cioè, tutta la cultura televisiva, addirittura poi vabbè Simone Regazzoni, che è poi il portavoce in Italia di questo discorso, ha lavorato su Harry Potter, addirittura adesso sulla cultura porno, l'ultimo libro, ce ne sarebbe. È diventato un genere anche quello. Senza dubbio, c'è la filosofia, certo. Sì. Beh, l'agenzia X, qui manca Andrea Scarabelli che avrebbe dovuto dire, l'anno scorso ha pubblicato uno splendido libro adesso non mi ricordo come si chiamava il ragazzo che l'ha scritto l'autore, comunque un lavoro sulla vita di Mora Pozzi, ma un romanzo stupendo, bellissimo, sì, vinto il premio Calvino, tanto, vinto il premio Calvino, il romanzo si chiamava Splendido Splendente, lui sì, non mi ricordo come si chiamasse, neanche a me sfugge il nome, però comprate Splendido Splendente perché è un lavoro stupendo che è assolutamente, ma fra l'altro lui usa l'icona pop di Moana, per non parlare di Moana, lui parla della sua generazione, però sì, Moana sì, è sempre lì, sì, è proprio l'orizzonte, compare, cioè, poi è scritto molto bene, e questo poi fa la differenza, perché è inutile che quando si parla di letteratura bisogna parlare di come scrive uno, perché alla fine è questo che fa la differenza. Certo, qualità letteraria e storie da raccontare. E storie da raccontare, certo. Ah, quello che dicevi tu prima, cioè sul fatto che una delle caratteristiche fondamentali di quello che è stato chiamato nuova epica italiana, chiamala come vuoi, però sta di fatto che c'è stato di nuovo il coraggio, dopo tutto l'epoca postmoderna, di raccontare di nuovo grandi storie, sempre evitando la scorciatoia del ma tanto è già tutto stato detto, è già tutto stato scritto. Un'ambizione. Sì, ah, sì, sì, assolutamente. Ecco, questa cosa qui è stato un bel propulsore per noi narratori, nel senso che in qualche modo ti senti legittimato ad affrontare da un punto di vista epico per quanto mi riguarda, perché a me piace scrivere quelle cose lì, però comunque da un punto di vista serio, argomenti che magari erano stati sottovalutati. Puoi raccontare, come ha fatto Pennacchi, l'epopea dei migranti, è il caso di dirlo, colonizzatori che dal Veneto e dal Friuli arrivavano a colonizzare l'Agropontino, certo, in epoca fascista, puoi farlo come un grande romanzo d'avventura, come un grande romanzo storico. E con un linguaggio iperletterario però. Esatto. Beh, come il tuo. Sicuramente hai inserito in questo discorso, però è straordinario perché cioè, stringi stringi, io da ragazzino non mai poi mai avrei pensato che si potesse fare un romanzo su mia nonna Margherita, invece si può fare e questo è straordinario, può vedere anche molto bene, può essere un gran romanzo, mia nonna Margherita non è un romanzo scritto nella lingua di mia nonna Margherita che parla Rovigotto. Cioè questa è una gran cosa, continuare a parlare del lavoro degli assenti, vedi, Costa di Rovigo, per il Polesine. Noi siamo buonandì per parte di me, i Siviero. No, ecco, però questo è come dire, un effetto semplice dell'applicazione dell'evoluzione della narrativa. Questo secondo me è una gran cosa, poter raccontare così le storie degli avi e ridonare dignità.